giochi sul nostro tavolo e alla seconda stagione sta cercando un giocatore come te che registri la frase iniziale in maniera divertente e carina. Se anche tu vuoi smettere di sentire questa voce orrenda all'inizio del podcast, mandaci una tua registrazione a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie. Ciao a tutti, benvenuti, nuova puntata Giochi sul nostro podcast. Oggi siamo in due, cioè io, Fabio e Pierluca Zizzi. Allora, diciamo che la prima volta che l'avevo coinvolto in questa cosa, avevo pensato a Pierluca come, sai, l'ospite one shot. Poi è uno di quelli che si fa un attimino dentro e quindi è praticamente diventato più che un ospite fisso, praticamente un compartecipe del podcast. E ne sono molto felice, dai, ormai è diventata un'abitudine consolidata, quasi consolidata positiva, lo attendo con gioia. Sai, poco fa gli dico, ah, sei disponibile? Sì, sì, ha detto, guarda, interrompo un attimino l'ascolto del mio programma di economia avanzata. No, era sviluppo sostenibile, decrescita felice, informatevi, punto. Okay. Io invece gli ho detto che avrei spento il mio video di fisica quantistica 4, la scoperta del teletrasporto, e peccato, potevo inventarlo, invece mi dedico alla puntata del podcast. Allora, prima di tutto, già che ci sono, visto che sei qua, ho visto che stranamente continuano a pubblicare roba tua. C'è una sorta di follia collettiva, non si fermano più. Vediamo se poi questa follia è virale, cioè se anche la gente li compra o per qualcuno pubblicare. Va bene, posso raccontare subito una cosa divertente, almeno credo sia divertente, riguardo ai miei giochi, giusto perché l'autoironia ci deve essere, se no pensiamo di essere seri e diventa veramente drammatico. Sto scrivendo un regolamento su un giochino che ha Cocktail, una casa editrice francese, per chi ci ascolta. Quella delle scatoline di metallo di là. Esatto, esatto, okay. Esatto. E questo regolamento lo dovevo scrivere per Norimberga scorso. Ma non... vedo tutto il lavoro. Okay. Sono un po' lento, sì, leggermente lento. È sulla legge di Murphy, che penso che tutti conoscano, okay. Insomma, se qualcosa potrà andare male lo farà, questa è la legge di Murphy. E ho scritto nel regolamento per stabilire chi è il primo giocatore del primo turno, chi è il più sfortunato di tutti voi, oppure chi ha comprato più giochi di Pierluca Zizzi. Questo mi sembra un buon criterio almeno. Per stabilire la sfortuna, sì, però poi sì. C'è anche un po' di essere artefici del proprio destino. Io ti dico che tra l'altro poco tempo fa ho acquistato uno dei tuoi ultimi titoli. Ah. Che è nello specifico quello a tema Thor. Ah, Asgard, sì. Esatto, caro. E ha allietato simpaticamente una delle nostre ultime serate. Probabilmente ci devo mettere un paio di virgolette sull'allietato. È un gioco complesso, eh? Ma no, davvero. Poi è spiegato bene, facile. L'hai scritto te il regolamento, caro? No, il regolamento non l'ho scritto io. Devo dire che almeno quello non capisco perché effettivamente è un regolamento complesso, non forse chiarissimo, però alcuni dicono che si trovano bene, altri invece che non lo capiscono. È tipica una questione poi anche di struttura mentale per i regolamenti, sì. Ognuno. Non ti volevo interrompere, dimmi. No, nulla. Cosa hai trovato? Mettiamo i nostri panni a stendere nel podcast. Cosa hai trovato di così terribile in Asgard? No, vabbè, ma non era... Adesso ti prendo anche un po' in giro. Ti prendo, poi cioè, ma fai bene. È un gioco che ha dei vantaggi, secondo me. È un qualcosa che io dico sempre agli autori in erba di fare, ovvero di inventarsi un finale diverso dal gioco, quando possibile. E Asgard ha questo finale voluto dall'editore e voluto anche da me naturalmente, che è diverso dal gioco, insomma il gioco principale, mettiamola così, prepara il finale, direi che il gioco principale prende il 70% di tutta la partita, 80%, e poi c'è questo 20% circa che è preparato appunto dal gioco. Secondo me quella è una cosa azzeccata e quando posso la metto nei giochi, non è mai facile perché poi devi spiegare due regolamenti e non uno. Però insomma è una buona idea, fatelo per i giochi ambientati, ad esempio, perché è meglio, ti dà l'idea che il gioco abbia un finale più divertente del potenziale finale normale di un gioco lineare, Ok. Allora, detto questo, però, siccome non voglio poi farla diventare monotematica, io in ecco. Non è realtà Martina, no. ho visto che sta per uscirti come DV Giochi, un gioco di carte, Sì. che speri che sia il primo di una serie. Esce già con l'espansione, quindi Esatto. almeno parte dell'obiettivo è realizzato. Esatto. E poi ho visto anche altre cose? Dunque, come uscita di altri giochi, dici, Sì, o sì, sì, sì. espansione? Allora, di altri giochi, beh, sappiamo esce Iperborea per l'Europa, perché Ecco, negli sì. Stati Uniti è già uscito, insomma, almeno hanno venduto tutta una serie di copie al Gen Con, Bene. ed è andato, beh, possiamo dirlo, molto molto bene. E poi Siamo per un contenti. pubblico americano mi sembra molto adatto. Sì, è un po' pensato anche per il pubblico americano, ma gli editori dicono che unisce molto bene la parte europea con la parte American. Io non so quanto questo sia vero, perché effettivamente strizza molto l'occhio agli Stati Uniti e al loro modo di giocare, ma comunque è una parte strettamente German. Sì. Ecco, Indubitabile, ecco, ce l'ha. ma guarda, proprio su questo colgo l'occasione perché così mi incrocio anche sulle novità Essen. Ho visto che tu hai coniato il termine bag building per descrivere un po' la meccanica, una delle meccaniche più germa, se vogliamo, del gioco, cioè il fatto che in sostanza nel corso del gioco vengono svolte delle azioni le quali richiedono, lo dico secco così, dei cubetti di vari colori, che poi vabbè, poi l'adattamento ovviamente fa sì che i cubetti siano determinate cose e produca, vabbè, lasciamo perdere l'adattamento. Certo. Si usano questi cubetti e quindi nel corso del gioco tu vai a acquistare nuovi cubetti che tu nel corso del gioco pescherai sempre dalla tua sacca. Quindi il discorso è che tu puoi indirizzare sul tipo di cubetti che vuoi che ti servono e di conseguenza sul tipo di effetti che vorrai raggiungere. Quindi invece di questo tipo di cosa era tipica in passato del deck building, cioè del gioco di carte, tu lo hai trasferito in questo concetto cubetti, cioè risorsa di qualche tipo, spostandolo dal gioco di carte. Quindi Sì, per io e questo Andrea bag building. Chiarvesio, ricordiamolo, perché non Sì, sono sì, sì, l'unico sì. autore. Però a te che invece non ce l'ho io, quindi l'hai fatto te. È molto impegnato, effettivamente. Ci siamo visti l'altra sera per provare un mio prototipo, tra l'altro. Anche lui è virale, nel senso che anche lui vedo che esce con diverse cose. Sì. Eh beh, Re Riccardo, Richard I, come l'hanno chiamato, si chiama, il prototipo aveva come titolo Re Riccardo le Crociate. Ha una storia interessante. Preferisco che ve la racconti Andrea, naturalmente, ma se volete qualche Ma accenno dopo lo ci sta che facciamo. non ce la racconti. Raccontala pure tu, visto che ci sei. No, vabbè, dopo, magari dopo la Sì, raccontiamo, va bene. che è simpatico, sì, ma c'entra anche un altro mio editore che è What's Your Game, l'abbiamo nominato adesso con Sì. Asgard, che ha rifiutato quel prototipo dopo una vicissitudine molto lunga. Poi magari ne discutiamo. Sì, a proposito del bag building, Sì, beh, te l'hanno già sfruttato, l'abbiamo molto. eh. Cioè, nel senso che ho già visto almeno un paio di titoli che riprendono una meccanica simile quest'anno. Bene, Uno è sono. Orléans. Ah, Orléans, perché, tra l'altro lo so perché poi è una casa che tengo abbastanza d'occhio, mi sembra di LP se non erro. E in sostanza loro hanno predisposto questo gioco nel quale ci sono tutta una serie di azioni che si possono compiere. Per compiere queste azioni devi usare dei dischetti personaggio, ci sono quattro sì. tipi di personaggi se non ricordo male, vado a memoria sulla lettura del regolamento, e devi combinarli in modo diversi, cioè per esempio una certa azione ci vogliono tre dischetti marroni e uno giallo per dire, e chiaramente all'inizio del gioco parti con uno per colore. Quindi, se tu vuoi fare quell'azione, dovrai pianificare di riuscire a mettere nella sacchetta più cose di quel colore lì. Per Tra l'altro, nel corso del gioco c'è la possibilità anche di aumentare il numero di dischetti che tu tiri su ogni turno, quindi sempre dal bag, dalla sacchetta. Certo, certo. E quindi il concetto è quello che se sei uno di quelli che vuole andare a Alea Zero, cioè dici ok, ne tiro su 6 e ce ne ho 6 dentro, ne tiro su 7 e ne ho 7 dentro. Se invece vuoi giocare di più sul concetto appunto di deck building, bag building o quello che è, aumenti comunque il numero di dischetti dentro la sacchetta e semplicemente indirizzi un po' il gioco, ma ti lasci un po' schiavo dell'area. Quindi questo mi ricorda tanto. Certo. Allora, quando io presento un prototipo a un editore e lui accetta, io gli dico pubblicalo in fretta. Perché c'è un fenomeno che non posso non definire magico, proprio realmente di magia globale del pianeta Terra, per il quale dopo che un'idea è in circolo, senza copiature, senza plagi di nessun tipo, non sto dicendo questo, dopo che un'idea è in circolo per 3 anni erotti, come nel caso di Iperborea, escono dei giochi che hanno quella meccanica e escono insieme. Ma tra l'altro, guarda, una cosa che vedi che è una gemmazione, no? Da ogni cosa nasce una cosa nuova, ne avevamo mai finito con questi percorsi multipli. Mi viene in mente che è un articolo che ho in preparazione, che non so quando riuscirò a fare perché è un articolo complesso, è un articolo proprio sui diritti d'autore nel gioco da tavolo. Allora, adesso mentre lo sto dicendo, probabilmente fra 2 giorni esce qualcun altro con quell'articolo. Solito discorso, no? Beh, ne ho letto uno ieri, su, adesso dovrei citartelo, ho il computer sotto gli occhi, ma se lo trovo te lo dico, dai, in diretta, così. No, comunque il discorso infatti che si faceva, la sostanza, la sintesi estrema di un qualunque articolo che si può scrivere su quello è che è una cosa estremamente complessa e difficile da tutelare. Molto. E che è anche un bene per certi aspetti, perché cioè il bene e il male questa cosa. Perché noi partiamo dal presupposto che, per esempio, nella nostra legislazione, così come la maggior parte delle altre, è previsto che il gioco da tavolo in sé non può essere coperto in quanto tale dal diritto d'autore, nella sua interezza. Anche perché, in sostanza, ti basterebbe, già solo coprendolo in quel senso il Monopoli, parlando di uno di quelli standard di una volta, c'è tutta una serie di cose che non potresti fare. Cioè, non potresti fare in teoria il tira i dadi e muoviti, a questo punto anche il Monopoli violerebbe il diritto d'autore sul gioco dell'oca. Chiaro. E la tutela dovrebbe, chiaramente in maniera molto difficile, essere fatta sulla totalità del gioco, sull'insieme, la relazione unica che le regole hanno con la grafica, con le meccaniche, eccetera. Però poi il problema anche è che questo lasci, molto difficile. Bravo, perché lasci a un giudice il compito di stabilire dov'è che, cioè non può essere codificato in maniera facile, immediata, e questo per esempio è il motivo per cui, tanto per capirci, faccio un esempio classico, pensa allo Scarabeo nostro e lo Scrabble originario. Ci sono alcuni che possono dirti, beh, tutto sommato è lo stesso gioco, perché, come dire, lo guardano più da lontano, tra virgolette, e altri che ti dicono, guarda che sono 2 giochi diversi. Perché magari il giocatore che gioca a uno e che gioca all'altro nota in maniera clamorosa quelle che possono essere le differenze tra l'uno e l'altro. Certo. E quindi dipende da quanto da vicino lo vedi. È tutto lì. Poi tra l'altro la conoscenza tecnica di un eventuale giudice preso a decidere di questo è chiaramente drammaticamente improbabile, perché figurarsi se trovi quello che conosce a sufficienza, non dico bene, a sufficienza il mondo dei giochi da tavolo, dovrebbe informarsi, quindi dovrebbe sparire per 6 mesi, giocare e poi tornare per fare la sentenza. Ma guarda, ti dico questo, che lo spunto, no, per questo articolo, che come ti ho detto poi, essendo un po' a mio tempo, cioè il tema legale, mi diventa quasi un lavoro scriverlo, quindi chissà poi se alla fine lo farò. Però lo spunto me l'ha dato un'ordinanza che è uscita negli Stati Uniti su richiesta della DV Giochi, perché la DV Giochi deve tutelare quello che è un po' il suo cavallo di battaglia diffuso nel mondo, che è il Bang, e in sostanza c'è un editore orientale che l'aveva fatto in Oriente, in Cina, quelle bande là, aveva fatto una versione samurai, fra virgolette, del gioco, ma l'ha fatta proprio con quello che, almeno leggendo l'ordinanza, sembra essere una copia integrale, cioè semplicemente lo sceriffo è samurai, ha trasposto i ruoli cambiando semplicemente le immagini. Certo. Appunto. Cioè ha lasciato identici i ruoli, ha lasciato identiche le carte, ci ha lasciato addirittura nelle carte di Bang ci sono negli angoli i numeri e i colori delle carte da gioco normale, no? Sì. Poi ci ha lasciato anche quello, ci ha lasciato. E l'unica cosa è che finché l'ha fatto in Cina è una cosa, adesso ha fatto la traduzione e li sta vendendo anche in America. E quindi la DV Giochi ha iniziato una causa là. E l'ordinanza, comunque, cioè è stata molto lunga, l'ho letta. E questo qua, per quanto chiamasse giochi di ruolo questo, questo gioco, però vabbè, questa è l'unica, diciamo, divagazione, è andata proprio nel merito, cioè ha detto questo funziona così, questo funziona colà, questo ruolo è esattamente paragonabile a è identico a quell'altro, questo ruolo è come quello del vice sceriffo, questo ruolo è quello come del rinnegato, cioè l'ha studiata. E gli ha detto che, ecco, la cosa, la conclusione in sostanza è quella che come diritto d'autore proprio, diciamo, è in questo specifico caso è ragionabile, perché hanno copiato talmente tanto che ci puoi essere. Però comunque, diciamo, in ogni caso al limite, se no lo fai come, diciamo, un discorso di concorrenza sleale, ecco, per capirci, come copertura normativa. Però il concetto è che possono poi copiare, cioè possono poi essere riprodotte da un titolo all'altro le stesse identiche meccaniche cambiando pochissimo e i giochi sono diversi. Sì. Guarda tutti i cloni di uno che ci sono in giro nel mondo. Già. Ho trovato l'articolo che dice più o meno le cose che ci hai raccontato tu. Se vuoi, dico subito chi è la concorrenza al tuo futuro articolo. No? Allora, lo facciamo un'altra volta. No, dillo, è scherzo. Allora, Emiliano Sciarra, è un articolo molto interessante che ho letto ieri, su emilianosciarra.net, dice le cose che dici tu, praticamente gli stessi esempi, quindi non farli nel tuo futuro articolo, ma sono clamorosi, quindi è difficile non farli, sì. E racconta appunto di Scrabble, Scarabeo e Cina. È molto difficile questa cosa che racconti da tutelare e da raccontare anche ad altri. Io continuo a vedere autori dilettanti, parentesi molto breve, sono andato a Udine, ospite della IdeaG di Udine, e mi hanno affidato l'incauto compito di guardare quasi tutti i prototipi esistenti per dare 20 minuti del mio tempo a tutti gli autori dilettanti. 547 e non è ancora finito. Beh, ho lavorato 8 ore al giorno abbondanti, questo devo dirlo, ed è stato molto interessante, molto bello, gli autori e tutti quanti siamo stati molto soddisfatti, insomma è stato divertente, ecco, io tendo a fare le cose per divertimento. Tornando a noi, ho visto molti autori che uno, vabbè, non conoscono a sufficienza o approfonditamente il mondo dei giochi e quindi non si rendono conto che fanno dei cloni, sostanzialmente dei cloni, o se non proprio dei cloni, delle citazioni talmente smaccate di alcune parti del gioco che io non si possono, non credo sia un tribunale che possa mai condannare nel caso il loro gioco venga pubblicato, però effettivamente sono molto molto smaccate. E quello da tutelare è impossibile, perché se io ti metto il back building del gioco Zizi Chiarvesio in un altri 1000 giochi, beh, quello non è tutelabile. Al limite, per decenza, l'editore dovrebbe dire dai ai colori un'altra funzione che non sia proprio quella di giallo economia, rosa creazione, arancione creazione di pedine, eccetera, cioè rosso guerra, eccetera, eccetera. Però tanto per fare un esempio, visto che l'hai detto, io ho pensato alle rotelle di Tolkien. Sì. Gli basta soltanto, cioè, metterci una rotella in più o cambiare la dimensione della rotella. Beh, io ho un prototipo che tu hai giocato e hai visto, quello lì con le ruote concentriche, nel quale credo molto, peraltro, abbiamo fatto già varie battute su quel gioco, ha cambiato ambientazione varie volte. E, beh, quello, ok, è molto diverso dalle rotelle di Tolkien, perché è chiaro, uno è dentro l'altra. No, ma se vuoi fare lo stesso gioco, intendevo dire, se uno parte dal presupposto che dici tu, no? Cioè, parlavo della copia smaccata, non della derivazione. Certo. Perché poi le rotelle ci sono anche, mi ricordo di averle viste in particolare anche nel gioco, quello di Valtriani, che era uscito 0.11. Sì, 0.11. Usato in modo completamente diverso. Diverso, sì, sicuramente. No, beh, lì sta la fantasia, sta l'inventio nel quale utilizzi un'idea standard addirittura, oppure una novità di idea e la riproponi sotto un'altra ottica con un'arte, perché poi fare giochi è una piccola, minore forma d'arte, nel quale chi lo vede dice: vabbè, ma questo non è la stessa cosa. Anzi, guarda, è divertente proprio perché non è la stessa cosa, anche se utilizza quasi gli stessi materiali o le stesse forme, fisiche. Poi vabbè, io ho la mia idea personalissima, come diceva il cartellino personalissimo Divino Tommasi sulla Sì, il box. mio personalissimo cartellino. Esatto, e ho la mia idea sulla evoluzione continua del gioco da tavolo. Beh, certo, anch'io credo che questo sia una delle forze, del Esatto, gioco da tavolo. cioè in pratica tu trovi dei titoli che continuativamente, cioè è difficile che trovi improvvisamente il salto evolutivo. Può Ma certo. succedere, ma è anomalo. Di solito semplicemente il titolo prima aggiunge, il titolo dopo aggiunge qualcosina di più al titolo prima e aumenta il bagaglio che diventa sempre più grosso Certo. di cose. Infatti io sono convintissimo, lo vedo, che a volte sul tavolo ci finiscono titoli di anche solo di 6, 7, 8 anni fa e ci diciamo, cacchio, come si vede la differenza? Sì, Cioè, l'altra sera molto. abbiamo giocato Le Havre, Ah. cioè, un gioco che ha un suo senso, ha un suo tutto, però, cioè, sono passati degli anni, oggi, giocando, cioè, avendo giocato un'annata con 100 titoli diversi, lo guardi e dici, cioè, si vede che non è di quest'anno, che è di diversi anni Sì. fa, eppure sarà 6 anni fa è uscito, non è che è uscito 50, E anche in direzione opposta, diciamo, secondo me, i bravi game designer tentano di evolvere le loro stesse idee. Adesso faccio un esempio che mi autoincensa brutalmente. A gennaio uscirà un gioco che era un prototipo fino a un annetto fa, che si chiama Simurgh, c'è già su Board Game Geek. Quello NKSN, cos'è quello domeno? Esatto. I polacchi, beh, quello ha come idea centrale il board building. In pratica tu hai delle mini plance o delle plance un po' più grosse del mini, ce ne sono di due tipi, che aggiungi sulla plancia principale di gioco e diventa una plancia giocabile con nuove regole sopra fino alla fine del turno. Che è, a mio avviso, molto, molto interessante. Quello che ha convinto l'editore che il gioco era strapubblicabile. Anche se mi sta cambiando tutta una serie di cose che non mi piacciono, Cioè, non importa. alla fine ci saranno gli ittiti. Sì, alla fine. No, l'ambientazione più o meno è rimasta quella. Se, beh, insomma, come forse dicevamo, si è evoluta da dinosauri a draghi, ma Sì, insomma, non è una distanza così che titanica, insomma. rimane un fantasy a tutti gli effetti. No, mi sta togliendo me le meccaniche a me care. Chi conosce i miei giochi sa che io tento di metterci sempre del confronto diretto tra giocatori che si fanno cose cattivissime se fosse per le mie regole. Poi gli editori che temono il mercato tedesco, meglio, temono di non vendere sul mercato tedesco per la psicologia malata dei nostri amici crucchi. E così ho detto una cosa cattivissima e politicamente scorretta, in cui non ci si può confrontare direttamente, se no si mette a piangere il bimbo. E quindi mi cassano buona parte o tutte le meccaniche che hanno a che fare con le fregature segrete, il limitare il gioco dell'altro in maniera diretta, eccetera, Beh, eccetera. sai, te ti chiami Zizzi, ti chiamassi Kramer, dopo 30 anni che fai giochi, te lo fanno fare. Perché Certo. Kramer è uno di quelli, fra gli autori tedeschi, che mette più di queste cattiverie dirette, nei giochi. Tante Certo, ma volte. sicuramente. Allora Sparse. aspettiamo che passino 30 anni. Eh sì, se non di più. Vediamo. Molto di più, molto di più. Il mondo sarà finito molto prima, Però aspetta, probabilmente. chiudiamo un po' tutta una valanga di parentesi e ritorniamo, perché in effetti la prima cosa che mi avevi detto quando hai detto facciamo una puntata era devo parlare di quell'esperienza lì dei prototipi. Ah, sì. Allora, beh, Udine, intanto, diciamolo subito, Roberto che l'ha organizzata, autore, anche lui diventerà autore, insomma, penso che gli pubblicano dei giochi adesso, non so. Wannabe, Esatto, wannabe. vedremo. Comunque, Udine è una location bellissima, eravamo in un giardino pubblico meraviglioso, che aiuta, insomma, il confronto con lo 011 di Torino, per chi fosse venuto a Idea G a gennaio, alle Idea G, è svilente, nel senso che siamo in un tugurio molto bello, un albergo molto bello, però. So, no, è stupendo per certi versi, è comodo. Comunque eravamo lì e ognuno aveva il proprio prototipo con l'idea che molto buona, che riprenderemo, faccio già un annuncio, ma non credo di togliere nulla all'organizzazione, che riprenderemo nel senso che io mi sono offerto di fare la stessa cosa, quindi messaggio corale a chi ci ascolta, se verrete a IDEAG probabilmente vi potrete iscrivere come hanno fatto i ragazzi di Udine, a un elenco nel quale forse solo io, ma speriamo anche altri autori, diciamo, pubblicati, pluripubblicati, passeranno e vi aiuteranno col vostro prototipo, dandovi delle idee, soprattutto in virtù di una possibile pubblicabilità del gioco, e non tanto da altre ottiche, che penso sia la più interessante. È una bella idea, anche perché l'ho sentito che in giro ce ne sono di queste altre iniziative nel mondo. Sì. Però, cioè, no, non tantissime, però se non erro ce ne deve essere qualcosa del genere in Francia, perché so che hanno degli incontri. Sì, a Cannes si fa un qualcosa di simile. In Germania ne hanno due, in Germania. Uh-huh. Lo dico come se ci fossi stato, ma in realtà sono cose che ho sentito da altri autori e da Christian Beisdorf. Dovremmo spiegare chi è Christian Beisdorf, che è un osservatore internazionale di giochi. Comunque fa tanto calcio. Sì, ma fa una cosa simile. Effettivamente prende i talenti e li propone agli editori, quindi è un osservatore a tutti gli effetti. Tra l'altro una persona meravigliosa, simpaticissima, che viene tutti gli anni a IDEAG, quindi è un motivo in più per ancora venire. Più simpatico. Come? Ancora più simpatico, quindi. Sì, è diventato subito più simpatico. Poi c'erano anche in Canada, credo, qualcosa del genere, perché c'hanno preso una protezione di autori. Quindi sono quelle cose che vuol dire che c'è una rete, insomma, di autori. Sì, ma come tutti sanno coloro che hanno fatto l'autore anche solo per una volta, c'è una forte solidarietà tra gli autori e c'è un senso molto positivo e creativo di corporativismo non chiuso, nel senso che io non ho mai visto, sì, forse un paio di volte mi è successo, ma non ho praticamente mai visto un autore che chiudesse le proprie idee a un altro autore per paura che gliele copi, oppure che non desse consigli gratuiti, assolutamente dal cuore, come si diceva una volta, per migliorare il gioco di un altro autore. Ma guarda, sai che dice una cosa che adesso la sottolineo, io non so poi chi ci ascolta, nel senso che noi, cioè, come podcast usciamo su un blog che è già un pochino specialistico, chi l'ascolta è a sua volta un po' specialistico, quindi non lo so se poi ci sono degli autori effettivamente all'ascolto o no. Però io a volte, scrivendo il podcast, il blog nel tempo, ho avuto contatti con autori, fra virgolette, in erba, che chiedevano consigli. A volte ci siamo sentiti per telefono, eccetera. Ma lo sai che, cioè, per quelli che non hanno ancora pubblicato niente, una delle preoccupazioni classiche è: ma dimmi un po' com'è che tutelo il diritto sul mio gioco. Cioè, hanno la preoccupazione che lo tiro fuori, però non so neanche se lasciarlo, perché poi magari lo pubblicano loro, ci fanno un sacco di soldi e meno me ne danno. Allora, ti prendo la parola, perché questo mi è successo molto spesso e ho parlato molto spesso con editori, quasi tutti italiani, che mi raccontano esattamente quello che hai detto tu, ridendo. Sì, no, ma come ne servido io, perché poi alla fine, cioè, tutto sta a capire se puoi comprare il modellino Burago della Porsche o quello della Punto, non ma se puoi comprare la Porsche o la Punto con i soldi. Allora, forse l'abbiamo accennato un po' prima e anche in altre occasioni, ma è meglio dirlo, non c'è nessun modo reale ed efficiente per tutelare la vostra idea, se non al momento dell'uscita del gioco. Questo naturalmente dopo che esce, come abbiamo detto prima, vi possono copiare alcune meccaniche o citarle in vario modo. La tutela contro, diciamo così, con una parola bruttissima, contro l'editore cinico e baro che vi frega, quasi non può esistere. Certo, c'è il contratto che si firma, il contratto di intesa di edizione, nella quale l'editore si impegna a pubblicarti un gioco entro una determinata data e tu ti impegni a migliorare il gioco per renderlo pubblicabile. E c'è una tutela, beh, questo lo devo dire con forza in questa sede, come dicono quelli bravi, che garantisce che l'editore vuole pubblicarti il gioco e ne ha piena intenzione, ovvero l'anticipo, maledetto anticipo al momento della firma. No, è importante. Io ho fatto vari contratti, beh, insomma, sono quasi a 12 giochi pubblicati, ufficiali, poi ce ne sono altri, ma poco importa, nel quale distingo effettivamente, ultimamente me lo posso permettere, il fatto che firmo con un editore o meno, e da oggi in poi messaggio al mondo lo farò, se l'editore stesso mi dà un anticipo, perché significa che lui è realmente intenzionato a investire sulla mia idea. Cioè, poi non parliamo chiaramente di 10.000 euro di anticipo, tanto no, sono 500 per... euro, cioè, sono 500 euro standard, più o meno, 500 chi tiene da 600, ma siamo lì. Chiaro. E infatti non è l'entità della cifra a essere importante, è proprio il segno che lui comunque già quella cifra te le ha dati, che serve anche a coprire le spese del prototipo e a farti guadagnare un minimo di fiducia nel fatto che alcuni prototipi tra l'altro costano. Io di alcuni miei prototipi devo comprare tutta una serie di materiale che non costa quanto all'ingrosso, costa a me abbastanza, quindi magari ho fatto 6 prototipi per quel gioco, 100 euro o anche di più li ho dati via. E quindi insomma, ok, è una cosa minore, lo ammetto, però può aiutare. Quindi ne fai 10, sono 1000 euro, cioè se uno di questi sono 500 euro che rientrano, dice vabbè, certo. Qualcosina rientrato. Poi firmare un contratto, farsene avere una bella copia con la copia autografa, con la firma autografa di tutti, è un inizio di tutela. Spedirselo oppure registrarlo al notaio non serve a niente. Non serve a niente, vi fa spendere solo dei soldi, registrare la SIAE, non c'è nessuna forma di tutela alla SIAE reale, seria, quindi non lo fate. Anche perché poi te lo pubblica l'editore finlandese, cosa fai? Prendi un avvocato in Finlandia? Oh, guarda, questo è il tuo campo, credo che i processi si debbano fare appunto lì, nel paese nel paese dove te l'hanno violato, quindi esatto. Cioè, sono cacchi tuoi. Cioè, adesso, capiamoci, Bang DV Giochi in America lo distribuiscono, ha una certa portata economica, per quello hanno fatto un ricorso negli Stati Uniti. Certo. Ma cioè, quello è un titolo. Se a te ti violano, il Asgard, e te lo violano, in Argentina, devi prendere un avvocato in Argentina, cioè soltanto il costo. È impossibile. Impiegarlo e tutto, cioè diventa superiore, anche perché stiamo parlando di valori nell'ordine delle migliaia di euro, massimo decine di migliaia di euro. Sì. È chiaro, metto in guardia solo dalla Cina, sì, questo bisogna farlo, editori che io conosco, anche italiani, che hanno lavorato con la Cina, raccontano che il plagio sistematico di alcune tipologie di gioco, quelli che costano poco, quindi giochi di carte con poco materiale, scatoletta piccola, vengono regolarmente clonati e non si ha nessuna speranza legale di rivalersi, anche perché il governo cinese tutela i propri cittadini contro la legge internazionale, quindi sono dei veri grassatori. Tanto che questo mio amico editore insomma mi dice, guarda, se vogliamo fare, che conosce la Cina naturalmente, se vogliamo fare dei giochi in futuro per la Cina dobbiamo farli con tanto materiale molto differenziato, perché quello non riescono a clonartelo, o meglio non c'hanno voglia, non ci guadagnano abbastanza, perché non è economicamente conveniente per loro. Beh, dunque, poi fammi finire la marchetta su Dark Tales, che secondo me è interessante perché c'entra in realtà con l'argomento, nel senso che l'argomento fiabe, giusto per dirne uno, è molto utilizzato in tantissimi giochi, addirittura adesso ci sono vari giochi che utilizzano le fiabe, e è un fantasy trasversale, nel senso che noi col fantasy, noi occidentali europei, pensiamo al fantasy nordico tolkieniano, però nella nostra cultura c'è qualcosa che negli archetipi dei giochi, negli argomenti, nell'ambientazione dei giochi viene utilizzato spessissimo e sempre più, che sono appunto l'immenso patrimonio di fiabe che abbiamo in Europa, ma non solo, anche in Medio Oriente, le Mille e Una Notte, fiabe nordiche, nordafricane, eccetera. E niente, Dark Tales va un po' in quella direzione, è stato adattato da un'ambientazione che era appunto medievale, e poi invece abbiamo cambiato notevolmente le carte. È un po' spaventosa la copertina. è voluta. Sì, è quasi una fiaba zombie. è così perché è voluta dall'editore e io ne sono molto contento. Beh, voi pensate, questo anche io racconto sempre come voce narrante verso gli autori in erba, se doveste fare un gioco, che caratteristiche mettete in questo gioco perché sia un minimo originale? Se non volete cambiare l'ambientazione, almeno cambiate la tonalità, il colore dell'ambientazione, l'umore dell'ambientazione. Sì. Quindi dovendo raccontare delle fiabe classiche, peraltro, la prima espansione, giusto per dirne una, è su Biancaneve, la seconda non ve lo posso dire se no l'editore mi spara, ma è una fiaba a tutti nota, una fiaba famosissima. E, beh, dovendo andare in quella direzione lì, ci siamo detti rendiamo cupa l'atmosfera, rendiamola dark per l'appunto, e anche un po' ammiccante. Le carte all'interno non le avete viste, almeno non credo ci siano immagini in internet che girino sui disegni di Orizio, il disegnatore bravissimo. No, io l'ho visto perché ho già anche letto il manuale. Ah, ok. E quindi so di cosa stai parlando. Però lì ci sono poche immagini, ce ne sono 5 o 6. Ho visto il tema, infatti. Ma tra l'altro, una cosa, mini parentesi, prego. Perché parlo di un gioco italiano. Credo che quello che stai dicendo sia utile in questa logica. Allora, la Scienza Games aveva fatto uscire tempo fa un gioco che era ambientato sull'Arca di Noè, in sostanza. Sì. Sì. Ecco, quello che mi dicevano è che avevano incontrato poi in fase di vendita delle difficoltà perché era percepito, cioè l'attesa del potenziale acquirente era quello di avere davanti a sé un gioco praticamente per bambini, perché sia la grafica che il tema gli suggerivano un target di quel tipo, fra virgolette, mentre poi giocandolo si trovavano in difficoltà, non perché il gioco fosse mostruosamente complesso, né per gamers, ma per il fatto che era comunque più difficile di quello che ci si attendeva dall'inquadramento grafico barra di ambientazione del gioco. Sì, questo è molto importante. Se magari era l'Arca di Noè zombie, a parte che gli zombie vendono in questo periodo, lasciamo perdere, però tanto per capirci, se la grafica già era un po' diversa, cambiava anche l'aspettativa. Certo, questo è molto importante. Quando si ha un'ambientazione in un gioco, sebbene fittizia, mettiamo che sia anche fittizia, quindi potremmo giocarlo nello spazio, egizi o cinesi, si deve tener molto conto, questo lo deve fare l'editore naturalmente, si deve tener molto conto a chi lo venderai, perché ci sono delle idee nel nostro inconscio, tutto un pozzo molto ricco di insieme di substrati che dicono che alcuni argomenti vanno venduti o sono percepiti per alcune categorie di persone. Facciamo un esempio per altro tipo di giochi. I giochi ferroviari, ce ne sono tantissimi, sono per i bambini grandi, no? I bambini che hanno almeno 40 anni, 30 anni, via. Sì. Perché? Chiaramente, perché una gestione della ferrovia, dell'economia, i vagoni, il miglioramento tecnologico, eccetera. È vero che con i trenini ci giocano i bambini, ma con i trenoni dei giochi da tavolo non ci giocano i bambini, a meno che la grafica sia smaccatamente infantile. Bravo. E allora fai il trenino con i pupazzi sopra e il bambino dice mamma compramelo. Stessa cosa per altri tipi di giochi, il fantasy serio, diciamo così, di citazione nordica è per almeno i teenager in su. Perché chiaramente, perché comprende lo scontro fisico, la magia in senso serio del termine, mettiamola così. Invece il fantasy infantile è un fantasy fatto di babacci, si diceva una volta, addirittura adesso da un bel po' di anni c'è un fantasy misto alla grafica giapponese, quindi sì, è fantasy, ma chiaramente strizza l'occhio ai teenager e addirittura ai ragazzini o alle ragazzine. Guarda che su questo tema qua io ti cito un gioco che è molto atteso in questa Essen, potrebbe essere anche uno dei potenziali best seller, che è Imperial Settlers. Ah, se ho visto solo qualcosina, ecco, sì. Cioè, in PBS Atlas è una riedizione, rimasticazione, poi ne ho parlato, ne parlavo con Agzaroth che ha fatto l'anteprima, eccetera, mi diceva che comunque le regole un po' l'hanno cambiate, quindi si distanzia, però il concetto di base nasce da un altro gioco che si chiama 51st State, che è un gioco precedente che ha un'ambientazione post-apocalittica nucleare, in un universo che l'editore ha sfruttato per diversi titoli come Hiroshima X, eccetera. Sì. Il discorso è che quando è uscito in quella forma ha venduto ragionevolmente, ma ha un target di pubblico. Adesso che ci sono gli omettini paccioccosi e paffutosi in PBS Setter, improvvisamente può essere un best seller. Certo, certo, è molto importante. L'ambientazione taglia comunque, cioè per dire, escono gli zombie, cioè io non lo compro un gioco con gli zombie, punto, perché cioè, non mi piace, li guardavo quando ero piccolo, Zombie di George Romero, e sono rimasto, non dico che sono rimasto lì, però, cioè, come dire, dopo un po' mi stufa, no? Quindi certo, se escono certo. Gli zombie non li prendo, e una bella fetta di persone non li compra, però vendono un casino, quindi c'è una bella fetta che, sì. Che li compra, quindi c'è tutta una questione di target, giustamente. Eh sì, beh, gli zombie come altri argomenti più o meno noti, macroscopici, sono quelle tipologie che parlano direttamente a qualcosa di talmente condiviso e forte che ti fa vendere di più. Scherzando con Andrea Chiarvesio, con il quale, come tu penso molti sappiano, ho fatto tantissimi giochi, lui lavora per una casa editrice di tarocchi, è responsabile marketing e... Per i tarocchi sono una cosa seria, scherziamo sempre, io lo prendo sempre in giro, io sono uno degli autori di questa casa editrice, peraltro. Comunque, scherziamo sempre dicendo, ma Arcanum, adesso no? Cosa fa? Come? Arcanum, cos'era, sì. Arcanum è il gioco, ma io no, faccio, creo tarocchi per loro. Ah, proprio fatto. Perché sì, lo scarabeo è l'editore. Esatto, no? Lo scarabeo. E, loro hanno dei titoli di tarocchi, con i gatti bianchi, ad esempio, cioè al posto dei personaggi dei tarocchi ci sono dei gatti, oppure altri con i cani, cagnolini, oppure i tarocchi manga, e io lo prendo in giro dicendo, guarda, cioè, ma adesso cosa fate, i tarocchi con i pesci rossi o cose simili, e lui giustamente, molto giustamente, è l'animo razionale del duo, mi dice, sai quanto vendo in più con i gatti bianchi? Perché i gattini bianchi, sì. Rossi, quello che vuoi, gattino sorridente con gli occhioni grossi, come il gatto con gli stivali di Shrek, lo metti in una discarica di rifiuti per fare da mascotte della discarica di rifiuti locale, e la gente va a mettere i rifiuti con un sorriso perché c'è il gattino figo che miagola e fa tanta tenerezza. Gli zombie sono una caratteristica dell'animo umano che è, diciamo, amoreggia con la morte, col macabro, con la vita dopo la morte terribile, e c'è in tutti noi, e quindi è chiaro che vende, come gli egizi, come i romani, come mille altre cose, insomma. Ma a proposito, già che mi parli di scarabeo, è già finita l'avventura nei board game? Perché ho visto che avevano fatto tre anni fa Arcanum, sì. Poi Fairyland, e poi non ho visto niente. Dunque, dovrebbe risponderti Andrea, io lo posso fare in quanto diciamo amico di Andrea e amico anche degli editori, sono due meravigliose persone. E, allora, loro con Arcanum hanno venduto tutte le copie sostanzialmente, quindi non è andata male. Con Fairyland non è andata benissimo, adesso non so se è andata male o non è andata semplicemente bene, però insomma, dovete pensare che una casa editrice come lo Scarabeo, ce ne sono, è la seconda nel mondo per divulgazione di tarocchi, sui giochi non guadagna, cioè, lo usa al massimo per farsi pubblicità, quindi la scelta avrebbe dovuto essere: o ci dedichiamo molto di più ai giochi e cambiamo parte delle nostre politiche editoriali e facciamo una cosa seria nel mondo dei giochi, quindi cambiando veramente parte dell'organigramma delle cose, oppure è stata un'avventura temporanea in cui non abbiamo fatto nulla di che e continuiamo a guadagnare col 7%, 99% dei nostri introiti grazie ai tarocchi, non quell'1% che gli ha fatto guadagnare Arcanum, forse di più, anche il 5%, non lo so, non ho fatto i conti in tasca loro. Sono logiche di mercato, purtroppo, che dominano queste scelte strategiche. Non lo, lo fanno per divertimento. No, no, non lo fanno per divertimento. Non solo, allora, poi c'è da dire che, questo lo dico con grande forza, lo Scarabeo è una di quelle case editrici che ha fatto dell'arte, posso dire la parola arte con la A maiuscola, una delle colonne portanti delle loro scelte editoriali. I loro mazzi sono tra i più belli nel mondo, io oso dire i più belli del mondo, i loro mazzi in tarocchi. E il loro direttore editoriale, che è uno dei due soci, è stato un artista, è stato un disegnatore, un amante dell'arte in generale, e guai a chi tenti di dire che non è così, perché è veramente eccellente in questo. Ci sono case editrici di giochi che fanno queste scelte, che mettono questa scelta artistica forte nella loro scelta editoriale. E non è un segreto, anche qui torno a fare marchette, che What's Your Game fa esattamente anche questo. Non è l'unica, naturalmente, ma il livello grafico di alcuni giochi che vedo ultimamente, non solo What's Your Game, per carità, va in questa direzione, ovvero non solo vendo di più se il gioco è bello, ma voglio fare un gioco stupefacente perché mi voglio distinguere artisticamente, come marketing, come messaggio al pubblico. L'idea è: se comprate un gioco con un livello grafico e di disegni artistici elevatissimo, vi ricorderete per sempre di questo gioco. E naturalmente questo paga, a lungo andare paga. E può essere anche un rischio, perché io ricordo alcuni editori che mi hanno parlato di progetti che poi non sono andati, hanno fatto un grosso investimento e sono andati un po' a bagno. Certo, questo può succedere, ma come in tutte le scelte forti, anche dal lato dei materiali, io posso mettere un bellissimo timer elettronico perché il gioco ne avrà sicuramente meglio, lo pago tantissimo, poi il gioco va male, i timer elettronici ne ho 3.000 e sono rimasti in magazzino. Li rivendi per come attrezzo da cucina. Esatto, sì. Si chiama rischio d'impresa, può succedere. Non è facile che succeda alle case editrici accorte e grosse, è abbastanza difficile. Abbiamo parlato già parecchio, abbiamo toccato vari temi, mi sa che poi forse è meglio che tiriamo la fila e chiudiamo, così il resto poi lo rinviamo a una puntata successiva, tanto so che non riesco a perderti. mi dispiace per te. Facciamo una puntata post Essen, post Lucca, così vediamo a consuntivo cosa succede. Cosa abbiamo visto? E così. E non ti ho parlato di Movie Trailer 2, no, perché sennò il buon Fioretta mi picchia se non parlo di Movie Trailer 2. Tu lo sapevi che c'è Movie Trailer 2? Adesso lo so, ovviamente. Adesso lo sai. Va bene, un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Se oltre a giocare dalla mattina alla sera volete anche gentilmente donarci una sigla di inizio e una di fine fatte da voi, noi lo apprezzeremo moltissimo. Spedite tutto a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie della gentile attenzione.